Capitolo 18. Ormai ogni cosa era avviata. L'allestimento del teatro, la preparazione dei costumi, le prove degli attori e delle attrici procedevano spediti, ma benché non si verificassero altri grossi contrattempi, Fanny si rese conto, prima che molti giorni fossero passati, che per i diretti interessati il tutto non era uno svago ininterrotto. E che da parte sua lei non sarebbe stata costretta ad assistere dal di fuori a quello spettacolo di concorde letizia e soddisfazione che da principio si era quasi sentita incapace di sopportare. Ciascuno incominciò ad avere i suoi problemi. Edmund poi ne aveva moltissimi. Contro il suo parere arrivò dalla città un pittore di scene che si mise subito al lavoro facendo salire di molto la spesa preventivata e, cosa peggiore, dando un carattere più fastoso al tono generale della recita, e Tom, invece di lasciarsi guidare dal fratello come aveva promesso e contenere gli inviti, stava estendendoli ad ogni famiglia del vicinato che gli capitava di incontrare. Inoltre lo stesso Tom incominciò a innervosirsi per la lentezza con cui progrediva il lavoro del pittore e a trovare irritante quell'attesa prolungata. Sapeva a memoria la sua parte, tutte le sue parti, poiché si era assunto tutte le particine che potevano essere aggregate a quella del maggiordomo ed era ormai impaziente di recitare. E ogni giorno che passava a vuoto gli lasciava il tempo di rendersi conto di quanto fossero insignificanti quelle parti, anche prese tutte insieme, e di rimpiangere che non fosse stato scelto qualche altro testo. Fanny, sempre disposta a fare da paziente e cortese ascoltatrice, e che era spesso l'unica ascoltatrice a portata di mano, era depositaria di tutte le inquietudini e di tutte le lagnanze. Sapeva che, a giudizio di tutti, Mr. Yates declamava le sue tirate in modo assolutamente abominevole e che Mr. Yates, da parte sua, trovava deludente la prestazione di Mr. Crawford, che Tom Bertram parlava così in fretta che quanto diceva rischiava di risultare incomprensibile, che Mrs. Grant rovinava ogni cosa ridendo a sproposito, che Edmund era indietro con la sua parte e che avere a che fare con Mr. Ashworth era una disperazione perché ad ogni battuta aveva bisogno del suggeritore, parola per parola. Sapeva inoltre che il povero Mr. Ashworth trovava difficilmente qualcuno che volesse provare con lui. Le sue lagnanze le giunsero insieme a quelle degli altri e poiché, bastava vederli, Maria evitava sistematicamente il fidanzato e continuava, con frequenza assolutamente non necessaria, a provare e riprovare la prima scena, quella tra lei e Mr. Crawford, Fanny finì col provare il terrore di dover ascoltare ben altre proteste da parte del povero Mr. Ashworth. Dunque, lungi dal riscontrare che tutti erano contenti e soddisfatti, giunse alla conclusione che ciascuno desiderava qualcosa che non aveva ed era oggetto di critica da parte degli altri. Ciascuno aveva una parte o troppo lunga o troppo corta, nessuno si impegnava come avrebbe dovuto, nessuno ricordava da che parte doveva entrare in scena, nessuno, all'infuori di chi si stava lamentando, accettava di lasciarsi guidare. Comunque la recita procurava a lei, non meno che agli attori, un innocente divertimento. Harry Crawford recitava bene e a Fanny dava piacere entrare silenziosamente nella sala destinata a teatro e assistere alle prove del primo atto, nonostante il senso di disagio che le cagionavano certe battute di Maria. Anche Maria, pensava, recitava bene, anche troppo bene. Dopo la prima o la seconda prova Fanny finì con l'essere la loro unica spettatrice e alcune volte in qualità di suggeritrice, altre volte come semplice uditrice con rendersi molto utile. Per quanto le era possibile giudicare, Mr. Crawford era di gran lunga il miglior attore, aveva più sicurezza di Edmund, più senso della misura di Tom, più talento e miglior gusto di Mr. Yates. Come uomo non le piaceva, ma doveva ammettere che era lui il miglior attore e su questo punto quasi tutti erano d'accordo con lei. Vero è che Mr. Yates si indignava per la sua moderazione nel declamare e per la sua insipidità e che fatalmente giunse il giorno in cui Mr. Ashworth le si avvicinò con aria cupa dicendo «Pensa proprio che ci sia qualcosa di tanto bello, straordinario in tutto questo? Per l'anima mia proprio non mi riesce di ammirarlo e sia detto fra noi trovo ridicolo che un bassetto del genere, così meschino, così insignificante, venga spacciato per un grande attore». Da quel momento si ridestò in lui l'antica gelosia che Maria, ora che le speranze da lei riposte a Mr. Crawford apparivano sempre più fondate, non si preoccupava di dissipare. Per cui La probabilità che Mr. Rushworth riuscisse mai a mandare a memoria le sue 42 battute diminuirono ancora di più. Quanto poi al fatto che gli riuscisse a farne qualcosa di tollerabile, nessuno ci credeva, sua madre eccettuata. Lei infatti si rammaricava che la parte del figlio non fosse più importante e per questo motivo rimandò la sua venuta a Mansfield in attesa che gli attori fossero abbastanza avanti con le prove, così da permettere di includere tutte le scene in cui lui aveva una parte. Quanto agli altri, si limitavano a sperare che Mr. Rushworth riuscisse a ricordare l'ultima parola della battuta del suo interlocutore e la prima riga della propria replica, e poi fosse in grado di seguire il suggeritore per portarla a termine. Fanny, mossa da compassione e da innata gentilezza, si dava un grande affare per insegnargli a studiare e a imparare, fornendogli tutto l'aiuto e i consigli di cui era capace, tentando di creargli una memoria artificiale, imparando lei stessa ogni parola della parte di lui, il tutto però senza sensibili progressi. Certo, Fanny continuava ad essere agitata da apprensioni, ansie e inquietudini, ma tra queste e tutte le incombenze che occupavano il suo tempo libero e la sua attenzione, era tanto lontana dal trovarsi in mezzo agli altri senza impiego o utilità, quanto dall'essere l'unica a dover affrontare problemi o a sentirsi richiedere tempo e comprensione. Così la depressione causatale dalle previsioni dell'inizio si dimostrava sempre più immotivata, era utile a tutti e forse era tanto impegnata quanto qualsiasi altro. Per di più c'era moltissimo lavoro di cucito per sbrigare il quale occorreva il suo aiuto e dal modo in cui Mrs. Norris la interpellò in proposito risultò chiaro che considerava che lei stesse spassandosela come tutti gli altri. «Vieni qui, Fanny!» esclamò. «Questa è una bella occasione per te, ma non devi continuare a passare così da una stanza all'altra e startene a guardare con le mani in mano. Ho bisogno di te qui. Ho lavorato fino al punto di non reggermi più in piedi per ricavare il mantello di Mr. Rushworth senza dover mandare a prendere dell'altro raso. E ora penso che potresti aiutarmi a metterlo insieme. Ci sono solamente 3 cuciture da fare. Te la sbrigherai in un momento». «Mi considererei fortunata se mi toccasse solo di dirigere i lavori. Tu te la passi meglio di me, te lo dico io. Ma se nessuno facesse più di quanto fai tu, le cose non procederebbero alla svelta». In silenzio, Fanny prese il lavoro di cucito, senza tentare di ribattere, ma la più mite zia Bertram osservò: «Non c'è da meravigliarsi, sorella, che Fanny sia incantata. Sa, è tutto nuovo per lei». Noi due siamo state molto amanti delle recite un tempo e io lo sono ancora, anzi, appena sarò un po' più libera ho intenzione di assistere alle prove. Qual è l'intreccio del dramma, Fanny? Non me lo hai mai raccontato. Oh, sorella, la prego, non glielo chieda ora. Fanny non è di quelle che sanno parlare e lavorare insieme. Si tratta di promesse di innamorati, lover's vow. Credo, disse Fanny alla zia Bertram, che domani sera ci saranno le prove di 3 atti e questo le darà l'opportunità di vedere tutti gli attori insieme. Farebbe meglio ad aspettare che il sipario sia montato, si interpose Mrs. Norris. Sarà montato fra un giorno o due perché non ha senso una recita senza sipario e sarei sorpresa se lei non trovasse che quando lo si alza forma bellissime pieghe e festoni. Lady Bertram parve più che rassegnata all'attesa, ma Fanny non condivideva l'imperturbabilità della zia, dava grande importanza all'indomani perché se si fossero provati i 3 atti, Edmund e Miss Crawford avrebbero recitato insieme per la prima volta e nel terzo atto c'era una scena fra loro due che la interessava in modo particolare e lei desiderava e insieme temeva di vedere come l'avrebbero interpretata. Era tutta impostata sul tema dell'amore. Il cavaliere descriveva le caratteristiche di un matrimonio d'amore e la dama, in risposta, faceva poco meno di una dichiarazione d'amore. Fanny, che aveva letto e riletto la scena con pena e perplessità, era ansiosa di vedere come l'avrebbero recitata. Sarebbe stato interessante, anche troppo interessante. Non credeva che l'avessero già provata, neppure in privato. Giunse l'indomani. La prova generale restò fissata per la serata e l'attese con immutata tensione. Lavorò molto diligentemente sotto la guida della zia, ma il suo silenzio, la sua diligenza, nascondevano altri pensieri, altre cure. Così, verso mezzogiorno, si rifugiò col suo lavoro nella stanza est, per evitare di assistere ad una ennesima e a suo parere del tutto superflua prova del primo atto che Harry Crawford stava proponendo. Desiderava starsene sola e inoltre evitare la vista di Mr. Rushworth. Mentre attraversava l'atrio, vide di sfuggita Miss Crawford che in compagnia della sorella stava arrivando proprio allora dalla canonica, ma ciò non cambiò il suo progetto. Lavorò e meditò indisturbata nella stanza est per un quarto d'ora prima che qualcuno bussasse leggermente all'uscio. Era Miss Crawford. Non mi sbaglio? Sì, questa è la stanza est. Oh, cara Miss Price, le chiedo scusa, ma sono arrivata fino a lei per rivolgerle una supplica. Ho bisogno del suo aiuto. Fanny, benché assai sorpresa, si sforzò di fare gli onori di casa, ma mentre accoglieva la visitatrice con parole cortesi, il suo guardo preoccupato cadde sui lustri alari del focolare vuoto. «Grazie, ho caldo davvero. Mi permetta di trattenermi qui per un momento e abbia la bontà di sentire il mio terzo atto. Mi sono portata il libro e se lei volesse provare quell'atto con me le sarei talmente obbligata. Sono venuta qui oggi con l'intenzione di provarlo con Edmund, così, per conto nostro, per prepararci per questa sera, ma non mi riesce di trovarlo. E anche se ci riuscissi, non credo potrei farlo con lui finché non mi sia alleviata un po'. Perché veramente ci sono una o due battute. Lei sarà tanto buona, vero?» Fanny assentì con tutta cortesia, anche se con voce non perfettamente ferma. «Le è mai capitato di dare un'occhiata alla parte di cui parlo?» continuò Miss Crawford aprendo il libro. «Eccola, a tutta prima non ci ho fatto gran caso, ma parola mia, ecco, legga questa battuta e questa e questa. Come potrò guardarlo in viso e dire simili cose? Lei ci riuscirebbe? Ma già, sì, è suo cugino e questo fa tutta la differenza. Oh, deve provare il terzo atto insieme a me, così che io possa immaginare che lei è lui e proceda per gradi. In certi momenti lei gli assomiglia, sa? Davvero? Farò del mio meglio mettendoci tutta la mia buona volontà, ma devo leggere la parte poiché posso ripeterne ben poco a memoria. Oh, niente addirittura, immagino. Lei terrà il libro, naturalmente. Bene, incominciamo. Dobbiamo avere a portata di mano due sedie che lei porterà sul davanti della scena. Bene, ottime seggioline di sala da studio, non fatte per il teatro, direi, molto più adatte a ragazzine che vi siedono e scalciano mentre studiano la lezione. Cosa direbbero la sua governante e suo zio vedendole adibite a tale uso? Se Sir Thomas potesse vederci in questo momento si farebbe il segno della croce. Stiamo facendo le prove in ogni angolo della casa. Yates imperversa in sala da pranzo. L'ho udito mentre venivo di sopra. E il teatro è occupato naturalmente da quegli instancabili attori che sono Agatha e Frederick. Se loro non saranno perfetti ne sarei sorpresa. A proposito, li ho sbirciati 5 minuti fa ed era esattamente il momento in cui tentano di resistere al desiderio di abbracciarsi e Mr. Rushworth era in mia compagnia. Mi è sembrato che incominciasse a prendere un'espressione abbastanza strana, così sono corsa ai ripari come meglio ho potuto, mormorandogli «Avremo un'Agatha eccellente, vi è qualcosa di così materno nei suoi modi, di così autenticamente materno nella sua voce, nel suo portamento?» Non l'ho pensata bene, la sua espressione si è subito rischiarata. «Ma ora passiamo al mio soliloquio». Attaccò. E Fanny le diede la replica con tutto il modesto sentimento che la consapevolezza di essere lei a esprimersi al posto di Edmund era fatta per ispirarle, ma con un tono di voce, con un modo di fare così autenticamente femminili da non adattarsi ad una parte virile. Con un simile Anhalt di fronte, Miss Crawford trovò naturalmente il necessario coraggio ed erano giunte a metà scena quando si udì nuovamente bussare alla porta. Seguì una pausa. E quando di lì a un attimo Edmund fece la sua comparsa, il dialogo si interruppe definitivamente. Sorpresa, imbarazzo, piacere si dipinsero sui volti dei tre così inaspettatamente riuniti e siccome Edmund era venuto con lo stesso scopo che aveva spinto Philly Miss Crawford, non si trattò per loro di imbarazzo e piacere momentanei. Anche Edmund aveva con sé il libro e si era messo alla ricerca di Fanny per chiedere di provare con lui e di aiutarlo a prepararsi per la prova generale della serata. Ignorava che Miss Crawford si trovasse al park e grande fu la sua gioia e la sua ammirazione nel trovarsi così riuniti. nel poter confrontare i reciproci metodi di interpretazione e nel tributare a gara le più calde lodi alla compiacenza di Fanny. Quanto a lei, Fanny non poteva condividere il loro entusiasmo, si sentiva depressa, sentiva di non contare nulla per quei due, il fatto che l'una e l'altro l'avessero cercata non bastava a darle conforto. Ora avrebbero provato insieme. Edmond lo propose, insistette, pregò finché la sua dama, già poco contraria alla cosa fin da principio, non seppe rifiutarsi più a lungo e a Fanny fu chiesto solamente di suggerire le repliche e di fare le opportune osservazioni. Investita così delle funzioni di giudice e di critico, mentre da un lato desiderava sinceramente di esercitarle con scrupolo e serietà, indicando loro ogni minima imperfezione, dall'altro ne era distolta dalla sua sensibilità. Non poteva, non voleva, non osava. Anche se fosse stata ben altrimenti qualificata per esercitare la critica, la coscienza l'avrebbe trattenuta dall'avventurarsi a disapprovare. Sapeva di sentire troppo a vivo la complessa situazione per essere in grado di valutarne onestamente con sicurezza le sfumature. Far da suggeritore era abbastanza e a volte più che abbastanza. Non sempre riusciva a concentrarsi sul testo. Osservando i due attori, dimenticava se stessa e, agitata dal tono sempre più appassionato di Edmond, le era capitato una volta di voltar pagina proprio quando lui aveva bisogno di aiuto. La cosa fu attribuita dagli altri a più che giustificabile stanchezza. La ringraziavano e la compativano, senza sospettare, almeno lo sperava, quanto meritasse veramente la loro compassione. Finalmente giunsero al termine della scena e Fanny si sforzò di aggiungere le sue lodi ai complimenti che gli altri due si scambiavano. Poi, quando rimase nuovamente sola e fu in grado di richiamare alla mente ogni cosa, dovette ammettere che quell'interpretazione sarebbe stata improntata a tanta naturalezza e a tanta autenticità di sentimenti da assicurare pieno successo agli attori e da costituire per lei uno spettacolo oltremodo penoso. Ma qualunque ne fosse l'effetto, avrebbe dovuto sostenerne ancora l'impatto quel giorno stesso. La prima prova generale dei primi tre atti fu dunque fissata per quella sera. Mrs. Grant e Crawford si impegnarono a tornare subito dopo cena e tutti gli interessati si prepararono al grande momento con impazienza e, a quel che sembrava, in perfetta allegria. Tom esultava per un così decisivo passo avanti verso la conclusione, Edmund era su di giri dopo le prove della mattina e ogni altra marginale insofferenza sembrava appianata. Tutti erano scattanti e impazienti, le signore lasciarono la tavola del pranzo sollecitamente e i signori le seguirono senza tardare. Ad eccezione di Lady Bertram, Mrs. Norris e Julia, tutti si riunirono nel teatro assai per tempo e, avendo illuminato la sala nel miglior modo consentito dall'allestimento, non ancora portato a termine, restarono in attesa di Mrs. Grant e dei Crawford per dare il via alla prova generale. I Crawford arrivarono di lì a poco, ma senza Mrs. Grant, che non era potuta venire. Il dottor Grant, accampando una indisposizione alla quale la bella cognata prestava poca fede, non aveva potuto rinunciare alla presenza della moglie. «Il dottor Grant sta male», disse con burlesca solennità Miss Crawford. «È molto che sta male. Oggi non ha assaporato il fagiano. Lo ha trovato coriaceo. Ha fatto portare via il suo piatto ed è stato sofferente da quel momento in poi». «Che delusione! L'assenza di Mrs. Grant era un vero guaio. I suoi modi piacevoli e il suo carattere arrendevole ne facevano sempre una compagnia preziosa per tutti loro, ma in questa occasione Mrs. Grant era addirittura indispensabile. Non potevano recitare, non potevano provare con una qualche soddisfazione senza di lei. L'equilibrio dell'intera serata era rotto. Cosa si poteva fare? Tom, che doveva impersonare il villico, era disperato». Dopo una pausa piena di perplessità, alcuni sguardi incominciarono a volgersi verso Fanny e una voce o due dissero: «Se Miss Price fosse così buona da leggere la parte!» Fanny fu immediatamente sommersa dalle implorazioni. Tutti glielo chiedevano, perfino Edmund insistette: «Fallo, Fanny, se non ti costa troppo!» Ma Fanny ancora si tirava indietro. Perché non si rivolgevano anche a Miss Crawford? E perché mai lei non se n'era andata in camera sua, pur sapendo con certezza che là sarebbe stata più al sicuro invece di voler assistere alle prove? Sapeva che ne sarebbe stata irritata, che ne avrebbe sofferto, sapeva che era suo dovere starne lontana, adesso era giustamente punita. «Ma solo da leggere la parte», disse Harry Crawford in tono di supplica. «E sono sicura che conosce a memoria parola per parola», aggiunse Maria, «perché l'altro giorno ha saputo correggere Mrs. Grant in una ventina di punti. Fanny, sono sicura che sai la parte». Fanny non lo poté negare, e poiché tutti insistevano, poiché Edmund ripeté il suo desiderio, e con uno sguardo affettuoso che diceva come lui dipendesse dalla sua indole gentile, dovette cedere. Avrebbe fatto del suo meglio. Ciascuno fu soddisfatto, ed ella fu lasciata ai suoi tremori e ai palpiti di un cuore che batteva all'impazzata, mentre gli altri si preparavano a incominciare. E incominciarono. Ed essendo troppo presi dal brusio delle loro voci per essere colpiti da quello insolito che veniva dall'altra ala della casa, erano andati avanti un buon tratto quando la porta della stanza venne spalancata con impeto ed entrò Giulia con volto attonito e atterrito. «È arrivato mio padre!» esclamò. «È entrato nell'atrio proprio in questo momento!»